Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, in questi giorni si moltiplicano gli appelli per portare aiuti e solidarietà ai terremotati di Haiti. La tragedia di quel paese è sicuramente una delle più gravi degli ultimi decenni e quindi le esigenze di intervento sono sicuramente moltissime. Si è mobilitato, questa volta con un compito di pace, il grande esercito americano e gli Stati Uniti avranno un compito di primo piano negli interventi e nella ricostruzione. Ma allora mi chiedo, che senso possono avere i necessariamente piccoli aiuti che noi italiani possiamo dare, le nostre piccole offerte che possiamo indirizzare alle associazioni impegnate nei paesi in via di sviluppo? Filippo. Gentile Filippo, è vero, di fronte a una tragedia così vasta e estesa, quello che rischia di prevalere è un senso di distacco e di impotenza. Eppure, proprio eventi di questo tipo possono essere un elemento per riflettere sul valore dell'umanità. Perché la parola umanità racchiude sia la complessità delle persone che vivono su questo nostro mondo, sia il sentimento che contraddistingue l'uomo per la sua capacità di comprendere i valori più profondi della persona. Allora, una tragedia come quella di Haiti deve ricordarci che anche un grande fiume è fatto di tante piccole gocce d'acqua, che se è vero che i pochi euro che ognuno di noi può donare possono sembrare non servire a nulla, certamente serviranno a qualcosa i milioni di euro che con l'insieme delle offerte si potranno mettere a frutto. Ad Haiti, come in tante altre parti del mondo, organizzazioni italiane erano e sono presenti con i loro centri di assistenza ed intervento. In questa fase sono loro i rappresentanti di un'umanità di cui noi dobbiamo sentirci parte e anche grazie al nostro piccolo aiuto possono continuare a portare il loro sostegno e la nostra solidarietà. Caro direttore, abbiamo tutti ascoltato le parole di Silvio Berlusconi che per l'ennesima volta, e malgrado ci avesse dato poco tempo prima una flebile speranza di veder ridotta almeno in parte la notevole tassazione che grava su ognuno di noi, ha invece chiaramente escluso per il momento un sia pur minimo ritocco delle imposte, giustificandolo con il perdurare della crisi economica che ormai affligge mezza Europa. Ma come? Il tanto strombazzato scudo fiscale non ha forse fatto rientrare una sostanziosa quantità di capitali che tanti furbetti avevano provato a sottrarre alle maglie del fisco? E tutte le proprietà liquide ed immobiliari sequestrate alle varie famiglie mafiose non hanno forse contribuito a rimpinguare le casse dello Stato? Mi par di ricordare inoltre che il taglio delle tasse è sempre stato il cavallo di battaglia di questo, come d'altra parte di qualsiasi altro governo si sia insediato in questa Repubblica, cavallo dal quale in ogni caso si sono affrettati a scendere appena preso possesso dei pieni poteri, visto che per attuare un'adeguata riforma fiscale sarebbe necessario anche intervenire sulle spese superflue che da decenni aggravano il bilancio statale. Ma quale governo si è mai azzardato a sfoltire la giungla di privilegi e benefici che derivano dal solo fatto di far parte della casta politica, magari in via del tutto marginale? È di qualche giorno fa la pubblicazione del primo gruppo delle 1843 gabelle che nelle forme più svariate ci vengono ammannite senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le necessità. C'è persino, tanto per dirne una, l'addizionale imposte reddito su produzione, distribuzione e rappresentazione di porno e violenza. Perciò, visto come procede anche questo governo, continuo ad affermare che ormai la politica è sempre più distante dal cittadino comune. Lo inganna e lo depreda senza che neppure se ne accorga, senza un filo di vergogna e conseguentemente io mi defilo dal partecipare a qualsiasi manifestazione di voto, unico mio mezzo di protesta contro un tale atteggiamento governativo. Stefania, Roma. Tutti i giornali titolano «Berlusconi fa marcia indietro sul calo tasse». Io avrei titolato «Italia popolo a maggioranza di ingenui». Come si può aver creduto solo per un momento che si sarebbe potuto calare la pressione fiscale, in questo momento soprattutto? Gli aumenti sono stati applicati dal governo Prodi in un preciso momento economico nei confronti dell'Europa e di tutti i suoi parametri, consentendoci di rimanere nella cerchia dell'Europa unita. Decisione che purtroppo non è stata capita e ha accelerato la discesa nei sondaggi per Prodi, facendogli imboccare la strada della caduta. Ora mi chiedo, qualcuno ha pensato se in questo momento di crisi storica fossimo anche fuori dall'Europa e con in tasca di nuovo la lira? Cosa che, oltretutto, se vengono calate le tasse e non viene abbassato il debito pubblico, può ancora accadere. Smettiamola di correre dietro ai proclami, non solo di Berlusconi, e cominciamo a fare uno più uno con la nostra testa. Perché, come dicevano i nostri nonni, chi fa sbaglia, ma chi non fa sbaglia due volte. Fidel. Qualche giorno fa ho letto un articolo sulle tasse che pagano i parlamentari tutti, Camera e Senato, sui loro emolumenti. Tra l'altro non si è ancora capito quanto effettivamente guadagnino, sembra un segreto di Stato. Non è possibile che un lavoratore con uno stipendio mensile di 1.000 o 1.500 euro debba pagare molte più tasse dei parlamentari. Per la Camera l'aliquota è del 17,36%, mentre al Senato è del 15,32%, senza considerare tutti gli altri privilegi. Loredana. Secondo me non servono nuove regole e tasse per regolare l'attività bancaria. Il problema è a monte e sono i tassi troppo bassi fissati dalla Fed. Si parla di libero mercato, ma mi chiedo che libero mercato è quello in cui la principale discriminante sulla quale effettuare le scelte di investimento è fissata dallo Stato. Da qui discendono buona parte delle storture del sistema. Se un banchiere non approfittasse del carry trade, sarebbe da licenziare. Pietro, Bergamo. Perché non si può creare un filtro? Una griglia che permetta che sul mercato si possano presentare solo quegli strumenti finanziari che dimostrano dove nascono e quali finalità hanno. Molti prodotti sul mercato finanziario sono così complessi e ingarbugliati che i controlli sugli stessi sono quasi impossibili. Sarebbe più semplice, penso, controllarne gli utili. Filippo da Padova. Pochi se ne sono accorti, ma niente. Nemmeno un piccolo accenno. Ho aspettato alcuni giorni per vedere le reazioni dei politici, che mi aspettavo fossero di un certo tipo in riferimento a Rosarno. E invece, no. Neanche un minimo accenno al razzismo e all'intolleranza. No, si è parlato solo di un normale problema di ordine pubblico, o di integrazione, di lavoro nero mal pagato, o tutt'al più si è detto che era colpa della criminalità organizzata, che cavalca il fenomeno per motivi elettorali e di consenso. Caro direttore, mi dica lei cosa non sarebbe stato detto se un quarto di ciò che è successo fosse avvenuto in qualche paese della Bergamasca o del Veronese. Quali iperboli di parole come xenofobia, disprezzo del diverso eccetera sarebbero state usate per definire il fatto? Ma si sa, in quelle zone non c'è il nemico politico da sbugiardare e denigrare a fini elettorali. Lì pigliano voti un po' tutti e la paura di perdere consenso sparando nel mucchio è alta. Meglio evitare certi toni, vero? Maurizio, Milano. Seguo da Parigi l'incomprensibile, per quanto mi riguarda, dibattito sui body scanner, quando scopro finalmente che qualcuno è riuscito a motivare l'avversione verso queste macchine e a riempire di contenuto questa vuota parola: privacy. Si tratta di Luxuria, la quale dice: pensate all'imbarazzo di chi, per motivi estetici o medici, ha delle protesi impiantate visibili al body scanner. A subire i danni maggiori del body scanner sarebbero, secondo Luxuria, proprio le trans. Per le trans, si legge nel suo post, non solo sarà umiliante mettersi a nudo, ma in certi scali di paesi meno aperti ci saranno ritardi per controlli, domande imbarazzanti, se non addirittura il diniego di accesso. Beh, insomma, che ne parliamo a fare ancora? Claudia. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.